Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, noi siamo pronti con Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e naturalmente i temi del nostro sommario. Mi lamento, quindi sono, o no? Inculla in tutta sicurezza. Aggiungi un pizzico di autostima alla tua vita. Scagli la prima pietra che non si è lamentato mai e chi non ha mai dovuto sopportare i lamenti altrui. Sembra uno dei passatempi preferiti di uomini, donne e bambini. I motivi non mancano, ci lamentiamo se fa caldo, se fa freddo, se piove, se non piove, del lavoro che c'è, di quello che non c'è. Le mogli si lamentano dei mariti, i mariti si lamentano delle mogli, i figli dei genitori, e poi ci sono le suocere, i vicini impiccioni, i cani dei vicini. Ogni fatto della vita, triste o lieto, fondamentale o marginale, può essere un valido pretesto. Ci lamentiamo anche di chi si lamenta e senza accorgerci ci rendiamo conto che ci stiamo lamentando anche noi. Insomma, uscire da questo circolo vizioso è difficile, ma noi oggi insieme proveremo a trovare una via d'uscita per il nostro essere, per il nostro benessere. Ci aiuteranno due esperti, il dottor Luciano Ballabio, che in studio con me a questo tema ha dedicato un libro che io vi consiglio, molto interessante, utile, L'arte di non lamentarsi mai. Franco Angeli, esperto di È un coach? L'abbiamo imparato questa volta, questo termine, ne abbiamo parlato tante volte, e aggiungerei anche formatore, dottor Ballabio. Il coach è ormai una figura che viene sempre più conosciuta, no? Sì, il coach è un allenatore, ma a differenza dell'allenatore sportivo, si occupa della persona a 360 gradi, delle sue capacità, competenze professionali, ma anche del suo benessere personale, mentale, emozionale, relazionale, ed è quindi una professione affascinante che costringe chi la svolge a essere prima di tutto allenatore di se stesso. In linea con noi abbiamo Alberto Pellai, medico e ricercatore all'Università di Milano, papà di Questa casa non è un albergo. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ti lamenti? Ma insomma, tu lo sai, ogni tanto sì e ogni tanto no, insomma dipende dalle giornate. Dottor Ballabio, lamentarsi è una tentazione irresistibile, sembra quasi scritta nel DNA di molti di noi, e anch'io così inconsapevolmente sono caduta nel tranello. Di solito pensiamo che a lamentarsi siano gli altri, noi non ci lamentiamo, diciamo che raccontiamo il nostro disappunto, il nostro orgoglio ferito o l'accanimento della sorte, insomma sono sempre gli altri che si lamentano di gamba buona, mentre noi lo facciamo a ragion veduta. Questa è un po' la posizione. Il lamento è una scorciatoia, ma una scorciatoia pericolosa, perché ci può portare nel burrone. C'è lamento e lamento, c'è un lamento innocuo che non fa male a nessuno, e direi che soprattutto quello che possiamo rivolgere a noi stessi o che non coinvolge altre persone, e questo non solo non è pericoloso, ma direi che è fisiologico. Il lamento comincia a diventare pericoloso quando è fine a se stesso, quando ci lamentiamo di chi si lamenta, quando ci lasciamo coinvolgere e ci ritroviamo su una china che non governiamo più e dalla quale rischiamo di essere travolti. Quindi non drammatizzerei, no, ma nemmeno sottovaluterei i rischi che può comportare una sequenza di lamenti incontrollata e incontrollabile. Perché, dottor Ballabio, il lamento a volte ci fa sentire meglio, è liberatorio, ci tira un po' sul morale, anche un modo forse di chiedere aiuto, di chiedere attenzione, ma come lei diceva può diventare una trappola. E nel suo libro lei scrive che come chi ha il vizio del fumo dell'alcol, così i lamentosi cronicizzati finiscono per dipendere dalle loro stesse lamentele. Il problema, caro dottor Ballabio, come succede un po' per l'invidia ad esempio, che nessuno ammette di essere invidioso, nessuno crede, sa, ammette di essere un borbottone cronico. Allora ci aiuti lei a fare un autoesame con degli esempi pratici, così io e Alberto già prendiamo nota e ci rendiamo conto se ci lamentiamo una volta ogni tanto oppure se i nostri lamenti stanno invadendo il nostro quotidiano? Ma direi che nella domanda c'è già in nuce anche la risposta, probabilmente. Consapevolezza, diventare sempre più consapevoli di ciò che accade a noi stessi, in noi stessi, di quando la tentazione del lamento sta superando una soglia di guardia, di quando invece è fisiologica e è, come dicevamo prima, innocua. Ma al tempo stesso consapevolezza anche di ciò che fanno le persone intorno a noi, e quindi per acquisire questa consapevolezza è necessario osservazione, non solo attraverso lo sguardo ma attraverso tutti i sensi, e ascolto. E spesso può anche capitare che ascoltare una persona che si lamenta possa di per sé essere uno stimolo a cambiare atteggiamento mentale e comportamentale. Ci scrive subito Stefano: stavo per dirvi che non mi lamento mai, in realtà mi lamento di chi si lamenta, non li sopporto proprio. 349-238-6666 per mandarci un messaggio come Stefano, 824-0024 se volete intervenire lamentandovi magari. Alberto: noi raccogliamo lamentazioni di molti genitori quando riceviamo le mail degli ascoltatori, da cui spesso prendiamo spunto per costruire le puntate di Questa casa non è un albergo. D'altronde la famiglia è uno dei contesti più a rischio. Sì, direi che in famiglia proprio c'è il lamento a doppio senso, cioè il lamento magari dei figli o dei bambini che attraverso una lamentazione provano a far individuare un bisogno che magari non è stato visto da mamma e papà, e molte volte, soprattutto nei passaggi cruciali, quando per esempio un bambino diventa preadolescente, un preadolescente entra nel pieno dell'adolescenza, ci sono le lamentazioni dei genitori. La classica è: non lo conosco più, non lo capisco più, chi è diventato mio figlio? Un'altra lamentazione tipica dei genitori e figli, e questa la conosci bene anche tu, è: questa casa non è un albergo. Spesso nei lamenti però ci sono dentro proprio messaggi importanti. Direi che più che lamenti, probabilmente le frasi di molti genitori sono vere e proprie richieste di aiuto, cioè necessità di confrontarsi con un'altra persona raccontando un problema, cercando nuove soluzioni per gestire una situazione che in casa al momento almeno appare molto difficoltosa, insormontabile. Bene, allora cari amici, da questo momento sino al termine del programma lamentatevi e chiamateci. Il dottor Ballabio, a lei il compito di farci capire perché a non lamentarci potremmo anche guadagnarci, perché l'arte di non lamentarsi, di cui lei parla nel suo libro, sembra essere molto vantaggiosa. Si impara? Soprattutto è l'arte di divertirsi quella che considero decisamente più vantaggiosa. Se ci pensiamo, il non lamentarsi è un comportamento negativo e come tale è anche difficile da pensare e da praticare. Per questo il sottotitolo del libro che ho scritto peraltro 7 anni fa, ma che come il buon vino sembra che con il tempo invecchiando acquisti valore invece che perderlo, aveva come ed ha come sottotitolo: per divertirsi in amore, nella vita e nel lavoro. E quindi forse invece di impegnarci a non lamentarci è più costruttivo e imparare a divertirci, imparare a sostituire il lamento con il divertimento e cogliere tutte le occasioni che la vita ci offre, la vita come il lavoro, il tempo libero come il tempo impegnato, le difficoltà come le occasioni favorevoli, le salite come le discese. Possiamo divertirci su uno ski lift, possiamo divertirci scendendo dalla discesa. Coppia, lavoro, famiglia, qual è il contesto che più vi dà occasioni di lamento e qual è il lamento che non riuscite proprio a trattenere, quello che vi dà più soddisfazione e quale invece quello che fate proprio fatica ad ascoltare? 824-0024, diteci il vostro lamento, il dottor Ballabio cercherà di farvi cambiare rotta. Ci proveremo. Una mela al giorno. I medici la chiamano SIDS, acronimo per Sudden Infant Death Syndrome. I genitori la conoscono come morte in culla. È bene parlarne, cari amici, anche se il solo pensiero fa paura, perché mamma e papà possono mettere in atto misure preventive molto efficaci. Ne parliamo oggi con il dottor Alessandro Vico, che è responsabile del centro di riferimento per la SIDS della Regione Piemonte presso l'ospedale Regina Margherita di Torino. Buongiorno dottor Vico, benvenuto. Buongiorno, grazie. Dottore, fortemente temuta da tutti i genitori, la SIDS è un evento che non può essere diagnosticato, ne presenta sintomi che possono indurre il sospetto, è così? Assolutamente sì, nella popolazione generale non c'è alcun modo di prevedere un evento di questo genere, ci sono degli esami particolari che possono andare a intercettare delle patologie estremamente rare e determinate, quali per esempio l'elettrocardiogramma per alcuni tipi di aritmia congenita oppure gli esami del sonno per alcune patologie del controllo cardiorespiratorio. Sull'incidenza della SIDS, dottor Vigo, mancano dati epidemiologici. Molto spesso, tra l'altro, anche leggendo su internet, l'incidenza è sovrastimata, ma la Regione Piemonte ha fatto un lavoro interessante da cui emergono risultati importanti. La Regione Piemonte ha attivato nel 2004 una sorveglianza attiva su tutte le morti improvvise del bambino di sotto i due anni, che ha fatto emergere una incidenza che è in linea con i paesi in cui l'incidenza è più bassa, quindi al di sotto dello 0,2 decessi ogni 1000 abitanti, ogni 1000 nuovi nati. E, dottor Vigo, il periodo a rischio è tra il primo e il dodicesimo mese di vita, ma in questo lasso di tempo ci sono mesi più a rischio di altri? Sì, ci sono, direi che la cupola di maggior rischio è stata i 2 e i 6 mesi, dove probabilmente l'instabilità del controllo respiratorio ha la sua massima espressione. Ed è proprio l'instabilità del controllo respiratorio quella che possiamo definire la causa della morte improvvisa in culla? E l'instabilità del controllo cardio dell'attività cardiorespiratoria è il fenomeno sul quale si sono appuntati maggiormente gli sguardi della ricerca e che dovrebbe arrivare a darci nel tempo le spiegazioni migliori. Veniamo allora ad alcuni accorgimenti semplici ma fondamentali per ridurre i rischi. Il primo, dottor Vigo, riguarda la posizione del bambino. Ecco, la posizione più stabile proprio per la sua attività cardiorespiratoria è quella supina, quindi quella con la pancia in su, per intenderci, con la mamma che guarda nel volto il bambino, ed è quella che non ammette al momento alcun tipo di eccezione. Invece, dottore, molti genitori mettono ancora il bambino di lato per paura del rigurgito. Questo è una cosa. Da chiarire, perché c'è molta confusione, molto timore. Si pensa che sia il rigurgito a provocare la morte in culla, il bambino soffocato dal latte che ha inghiottito. Dottore. Non c'è alcun rapporto serio tra la morte in culla e il rigurgito, che il più delle volte è un fenomeno agonico del bambino che purtroppo sta decedendo. Non deve esserci un'eccezione alla regola della posizione supina, neanche quando c'è un reflusso gastroesofageo diagnosticato in modo certo, vale a dire con esami come la pH metria esofageo o la impedenza metria esofagea. Posizione supina, e aggiungiamo un'altra indicazione estremamente importante: non fumare. Dottor Vigo, non si ripete abbastanza, in casa non si deve fumare, ma ormai le ricerche dicono che chi fuma anche in balcone rientra in casa, inquina ugualmente, il fumo non si manda via. Dottor Vigo, spenda due parole lei. Il fumo non si manda via, il fumo ha molteplici effetti negativi sul bambino e su tutta la sua famiglia. Uno degli effetti è proprio quello di potenziare purtroppo il rischio della morte in culla, e sarebbe già un grande risultato se tutti i genitori capissero che non devono per nessun motivo fumare nel medesimo ambiente, quindi nella casa dove sta un bambino, a maggior ragione se un bambino nei primi mesi di vita, perché ne accrescono sensibilmente i rischi. Dottor Vigo, io la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a lei. Pronto soccorso. Nuoce, attenzione. te e a chi ti sta accanto. Oggi parliamo di lamento. 824 0024. Dottor Ballabio, lei riesce a farci l'identikit del lamentoso, o dovrei dire lamentosa? Secondo una ricerca che è stata fatta nell'Ufficio Nazionale di Statistica Britannico, mettendo a confronto tre indagini condotte in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia, emerge che le donne, riguardo alla loro salute, si lamentano molto di più degli uomini, e poi alla fine stanno meglio, vivono più a lungo. Non vi leggo tutti i dati della ricerca, eccetera, che sembra un po' una gufata, ma lei che dice? Ci lamentiamo? Siamo noi donne più lamentose, almeno per quanto riguarda la salute? Ma io credo che questo sia uno dei pochi, se non l'unico tema su cui la parità è sostanzialmente assoluta. Mm. Non credo che sia possibile, con tutto il rispetto per la ricerca citata, fare una distinzione di genere o di sesso in riferimento alla propensione a lamentarsi. Credo che sia molto individuale, molto soggettivo, e che uomini e donne variamente abbiano occasioni e attitudini sostanzialmente analoghe. Magari ci lamentiamo di cose diverse, sempre questo nell'ambito della salute. E lo chiedo al dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Mi dica la verità, lei che cosa vede, che cosa sente? No, quello che sento soprattutto è una grossa attenzione che hanno le donne verso la salute, e quindi quello che può essere inteso come un lamentarsi di più forse è più un segno di attenzione. Gli uomini sono molto più superficiali, molto più distratti. Di fronte al dolore, devo dire, la mia esperienza è che la donna sia più resistente al dolore dell'uomo. E quando io ho un paziente maschio con un raffreddore, sembra che stia succedendo chissà che, una madre di famiglia con la febbre manda avanti lo stesso la famiglia. Grazie dottor Gargiulo, meno male che queste cose le dice lei, perché se le avessi dette io sarei sembrato di parte. Intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie, arrivederci. E noi andiamo da Antonio, che ci chiama da Pesaro. Buongiorno Antonio. Buongiorno Nicoletta, al suo ospite e ai miei colleghi ascoltatori. Io, guardi, mi riallaccio a quello che ha appena detto il dottor Gargiulo. Sì. Io ho mio padre che praticamente con un raffreddore sembra che abbia una leucemia, e scusi se faccio un paradosso così forte. Quindi concordo, visto che io sono maschio e non sono totalmente in conflitto di interesse come lei, e confermo che noi maschi abbiamo un lamento praticamente insito nel DNA. Fatta questa premessa personale, dico che io ho cercato di sdoppiare il mio lamentarmi. Io mi lamento moltissimo, all'inciviltà non mi abituerò mai, aborro qualsiasi persona che mi dice no, ma anche all'inciviltà oramai con la globalizzazione bisogna abituarsi. No, io mi lamenterò sempre, e ho deciso di scindere il lamento in due sottotronchi che vorrei condividere col dottor Ballabio, e cioè il lamento fertile e il lamento sterile. Io, dopo anni di lamento sterile, e mi sono accorto che il lamento sterile non fa altro che allontanare la gente da te, anche quando i concetti sono importanti, fondamentali per il quieto vivere e la convivenza, da quello fertile. Il fertile è, guarda, questo è il problema. Diceva prima un ascoltatore, io praticamente mi lamento delle persone che mi lamento. Ecco, allora fai una cosa, non ti lamentare del personaggio P che ti sta lamentando un qualcosa a te C. Vai all'origine del personaggio A e attacca il personaggio A, e vedrai che il personaggio B praticamente non c'è più nessun problema di lamentarsi, perché a volte noi ci lamentiamo di esperienze, di persone, di colleghi di lavoro o della vita stessa, sia per la salute che per gli eventi, e non ci rendiamo conto che a volte, come dicono i cattolici, l'eterogenesi dei fini, quindi gli accadimenti che non dipendono da noi, noi possiamo mettere impegno, disimpegno, ma gli accadimenti sono ineluttabili, li devi affrontare, e il lamento fertile deve affrontare l'eterogenesi dei fini. Quindi renditi conto se puoi essere fertile come lamento o sterile, perché te ne accorgerai quando il cellulare non squilla più, quando gli amici cambiano strada nell'incontrarti. Perché il lamento sterile fa scappare anche gli amici, è vero Antonio? Dottor Ballabio, Antonio le ha dato un bello spunto. Assolutamente d'accordo. Mi sembra che questa distinzione fra il lamento sterile, prima dicevamo il lamento fine a se stesso, e il lamento fertile, che invece è un lamento finalizzato, se vogliamo, costruttivo, un po' come le critiche. ma addirittura un lamento che può diventare una protesta, e può diventare una protesta organizzata. La rivoluzione francese è nata dai cahiers de doléances, e quindi un lamento condiviso che si trasforma in una azione propositiva e costruttiva perde però la sua identità di lamento appunto fine a se stesso, per acquisire quella di una proposta costruttiva finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Mi rendo conto che noi donne abbiamo le nostre responsabilità, bisogna ammetterlo, fondamentalmente anche in quanto madri, perché quando un uomo nasce è neutro, è puro, non è ancora un uomo, non è ancora un maschio. Comunque, per esempio, il bambino da piccolo fa il bagnetto, contento, felice, schizza l'acqua dappertutto, arriva la madre in bagno più felice di lui, gli porta pure le paperette. Questa stessa scena 30 anni dopo, lui torna a casa da calcetto, si fa la doccia a casa, riduce il bagno che sembra l'acqua fan di riccione, tu lo chiami in bagno e dici: vieni, vieni, guarda, guarda cosa hai fatto in bagno, guarda, l'aveva appena pulito, guarda. E lui ti guarda con l'aria innocente, stupida, di chi sta pensando? Delle paperette! E poi guarda, purtroppo sono finite le Olimpiadi e noi donne abbiamo pure perso quella speranza col curling di vedere due uomini che contemporaneamente, senza litigare, lavavano per terra. Degli studi effettuati nel Massachusetts gli è risultato che la frase pronunciata dalle donne è: vedi? Te l'avevo detto io! Mentre la frase pronunciata dagli uomini non è ti lascio, ma non perché non ci lasciate, ma perché essere così chiari proprio non ce la fate, ma è: ma chi? Io! Dottor Ballabio, ma chi? Io? È così, dica la verità. Noi? Lei non vuole fare differenze di genere, non si vuole sbilanciare, però c'è, a proposito di calcetto, una categoria di persone che si lamenta sempre con gli allenatori, i giocatori, gli avversari, sono i tifosi, no? E vivere accanto ad un tifoso che si lamenta di un rigore non fischiato, di un fallo non dato, avvelena. Prima erano solamente il lunedì, adesso avvelena tutta la settimana. Allora ho invitato il mio amico Gigi Garanzini e ho detto: Gigi, vieni qua a darmi una mano. A te di lamentele ne arrivano. Anche a te credo in casa, credo che qualcosina sai anche tu, no? Io lo so, infatti mi voglio togliere questa soddisfazione, soprattutto a capire come uscire, come educare i tifosi a non lamentarsi sempre, e vorrei dal dottor Ballabio anche qualche indicazione per spegnere le lamentazioni dei tifosi, a parte mettersi le cuffie. Gigi. Sì, è sempre colpa, perlomeno nel calcio, che è lo sport più popolare, è sempre colpa di qualcun altro. È impossibile che una squadra perda perché per colpa sua. L'ottica del tifoso è questa, quindi sono disposti ad arrivare fino al, non so, il terreno ci ha sfavorito, il vento, oggi c'era il vento, noi siamo una squadra troppo tecnica per giocare col vento, e queste sono le variabili estreme. Poi ci sono quelle che tu hai già elencato, che sono quelle più normali. L'allenatore sbaglia formazione a prescindere, se perdi ovviamente, certo. Se hai vinto la partita è un genio. Gli avversari sono sempre quelli che picchiano di più, sono molto fallosi, eccetera. I falli della tua squadra difficilmente li vedi. Non parliamo degli arbitri, è sempre colpa dell'arbitro. E una delle cose più esilaranti in assoluto è questa: il calcio, alla fine, le classifiche del calcio sono una partita doppia, nel senso che la squadra che vince prende 3 punti, se pareggia ne fa 1, e la squadra che perde non ne ottiene. Se tu parli con qualsiasi rappresentante, possibilmente i presidenti in questo caso sono più specializzati, a un certo punto della stagione gli dici: ma voi avete i punti che meritate. Come? A noi ci mancano 8 punti, a noi ce ne mancano 7, a noi ce ne mancano 15. E quindi, essendo, ripeto, partita doppia, ci dovrebbero essere altrettanti punti che qualcuno deve denunciare, certo. No? Deve denunciare l'incasso di questi punti immeritati. E invece no, nessuno accusa ricevuta di quello che ti è arrivato di buono, ma tutti invece sono pronti a lamentarsi dei punti che non hanno. Quindi il calcio è un piacevole, secondo me, tuttora, fino a quando c'è gente come Messi che lo illustra in questa maniera, è un piacevole manicomio. In cui il lamento è l'espressione base. Franco da Cantù Gigi ci scrive: vero, vero, gli interisti si lamentano sempre. Ma non so come ha fatto a capire che... Che tu hai rito, ecco, sì, per esempio. Pensavamo ad un interista in particolare, ma... No, però scusa, lasciami dire. È vero? No. L'interista ha smesso un po' di lamentarsi ultimamente, anche se ce l'ha nel DNA. Ha smesso a forza di annate che van bene. Credo che valga per il tifoso del Messina, per il tifoso del Valle d'Aosta interregionale, per il tifoso di Cantù, da dove scrive questo Franco. È assolutamente trasversale e non ci sono distinzioni di latitudine o longitudine per la teoria del lamento. Tu come sopravvivi al lamento del tifoso che ti scrive? Rido. In genere rido e provo a fare, credo che sia l'unica, no? Perché poi teniamoci, ci sono fondati motivi di lamento ogni tanto, ma sono talmente annegati nei lamenti pretestuosi che alla fine, ripeto, è un piacevole, simpatico manicomio. È una caratteristica interessante questa del lamento, che è colpevolizzante ed è deresponsabilizzante. Colpevolizza sempre qualcuno, anche eventualmente se stessi, ma colpevolizzare gli altri a maggior ragione, ma anche noi stessi non ci serve a assumere responsabilità di ciò che ci succede, di ciò che non ci succede. E quindi il consiglio, se proprio vogliamo, anche in chiave ironica, come giustamente suggeriva poco fa il collega, è per i tifosi, se vogliono rinunciare a lamentarsi, di cominciare a fare sport invece che limitarsi ad osservarlo. Gigi, una buona indicazione prima di... Assolutamente sì, è così come quello che manca nella cultura dello sportivo in generale, nel mondo, ma in Italia in particolare, è la cultura della sconfitta, cioè la capacità di sapere accettare una sconfitta. Questo sarebbe una materia di studio per i bambini, di farla diventare un'opportunità, uno stimolo per migliorarsi. Certo, perché tant'è vero che negli sport individuali non c'è questo tipo di deriva, no? Quando tu fai i 100 metri, quando fai il salto in lungo, quando giochi a tennis, non è mai colpa dell'altro, è colpa tua. Ovviamente, se proprio vuoi, o è merito dell'altro o è colpa tua. Non può essere colpa della pista in tartan che ti ha frenato la spinta o l'azione. Non appena c'è un avversario in un gioco di gruppo, in un gioco di squadra, la colpa non è mai tua. E noi siamo partiti dal calcio perché ad Alberto Pellai il calcio può dare degli spunti interessanti per parlare anche di bambini, di ragazzi. Spesso i figli si lamentano dei compagni che hanno fatto lo sgambetto, che non ti parlano, che ti rubano la merenda, che non ti hanno aiutato. Insomma, si ripropone un po' la squadra, no? Sì, in realtà stavo anche riflettendo che molte volte sono i papà che si lamentano a bordo campo con l'arbitro, con l'allenatore, che non valorizza a sufficienza il figlio, cioè il gioco delle lamentele, poi esattamente come si colloca ai bordi del campo, si colloca un po' anche nella vita. In generale quello di cui si lamentano i bambini a volte è proprio il fatto che non si trovano a loro agio, ecco, all'interno di relazioni da cui magari sono sopraffatti, e per un genitore è proprio fondamentale da una parte capire se quel lamento è una forte richiesta d'aiuto perché il bambino non ce la fa, oppure quel lamento è proprio una cronica automatica ammissione di debolezza per cui il bambino in realtà non ce la vuole fare e costantemente chiama sul campo il papà o la mamma a giocare al posto suo. In questo senso è fondamentale proprio un po' riflettere e domandare. Secondo me ci sono due tipologie di lamenti nei bambini: un lamento che è quello tipico magari del bambino che sta viaggiando in auto da 3 ore, non ce la fa più e ha diritto a lamentarsi perché attraverso il lamento chiede al genitore: fermati, ti prego, fermati, voglio fare la pipì. C'è proprio quel lamento del bambino che è costantemente lamentoso, nel qual caso l'errore più grosso che fa un genitore è quello di stare ad ascoltare il suo lamento, cioè lì invece è fondamentale che il genitore faccia fare un salto di qualità al bambino, cioè gli dia una strategia per poter gestire da solo la sua frustrazione, perché altrimenti per tutta la vita questo lamentarsi terrà incatenato genitore e bambino in una relazione da cui nessuno riesce più a svincolarsi. Allora, noi adesso abbiamo Bruna, a cui chiedo di aspettarci. Bruna, buongiorno intanto. Presente, buongiorno. Allora, io salutiamo Gigi Garanzini. Che bella cosa ha detto Alberto Pellai, applicabile al tifoso. Il tifoso è un bambino costantemente lamentoso. questa è l'etichetta, l'ho ricavata dalle parole di Alberto, è perfetta, un bambino costantemente lamentoso. Allora, grazie a Gigi che intanto noi ci vediamo. Ma che è successo? Che è successo? Ah, tu chiedi a me che cosa è successo? Ci vuole solo il coraggio tuo. Tu chiedi a me che è pazzesco. Cioè, tu chiedi a me che cosa è successo? Io dico, guardami. Guardami come sono ridotta, che sono un cencio. Il fatto è che tu non ti accorgi più di me. Non è vero. Ma come non? Non è vero, non ti accorgi. Non ti sei neanche accorto che mi sono tagliati i capelli di 1,5 mm. Tu non ti accorgi più di me perché pensi sempre al lavoro. Ecco la verità. Sempre al lavoro, devo andare al lavoro, c'ho da fare al lavoro. Adesso torno dal lavoro, ho capito. Però se tu vuoi, cosa voglio io? Ma no, ripeti, cosa voglio io? Che t'ho chiesto io? Io non t'ho chiesto niente, bello. Che t'ho chiesto io? Eh? Invece te sempre con questo lavoro, sempre col lavoro, sempre col lavoro. Ho capito, e allora cosa vuole una donna? Amore. Se non mi capisci, io parlo d'amore e tu non mi capisci. Allora forse dico, forse il sentimento, la passione, le cose va bene e tu non mi capisci. Allora io dico, forse è la nostra storia e metto l'impegno e quasi che va bene la palestra e che si figludi e che se fai sacrifici, questo e questo non mi capisci. Io se ne vuoi, chi se ne vuole, tu non mi capisci, tu non mi capisci. Io ho voluto stare libero, io vale che dire, e tu non mi capisci. Ma se parli così, chi te capisce? Bruna! Eccoci a lei. Complimenti per la trasmissione, vi ascolto spessissimo poiché sono agente di commercio, per cui ho tante ore in macchina da trascorrere. Ecco, alcuni ascoltatori mi stanno scrivendo di parlare degli automobilisti, che sono in effetti loro che si lamentano sempre al volante. Viene da sorridere. Io non mi lamento al volante, devo dire che mi trovo a mio agio comunque in macchina, sto bene, sto attenta alla strada, a volte le code ci sono, e pazienza. E quindi bene, non ha da lamentare. Ma lei si lamenta, Bruna, di qualcosa? Io mi lamento della gente che si lamenta per niente, veramente. Appunto, si faccio rima. Parliamo un discorso commerciale. I clienti, i negozianti si lamentano sempre. Si sono lamentati quando i tempi erano ottimi e si lamentavano tantissimo. E adesso si lamentano, adesso forse ne hanno di ben donde. Ma non riusciamo a capire veramente quando la gente ha difficoltà, perché se uno continua a lamentarsi come la favola del Pierino lupo al lupo, poi alla fine quando il lupo c'è nessuno crede, no? Certo. Io parlando commercialmente mi trovo queste pesi veramente pesanti, sono a volte delle situazioni. Allora, come chiediamo aiuto, Bruna, al dottor Ballabio, perché anche i messaggi ce lo dicono, non se ne può più. Sembra che il lamento diventi anche un po' contagioso, cioè avvelena un po' il clima. Un ascoltatore mi scrive: ho frequentato contemporaneamente due donne che si lamentavano sempre senza volerlo, come una spugna assorbita la loro negatività. Devo preoccuparmi. In due mosse, come liberarci dal lamento altrui? Beh, possiamo sempre vestire un impermeabile quando non c'è il sole ma c'è la pioggia. Dai lamenti altrui possiamo difenderci semplicemente fuggendo oppure innalzando una barriera protettiva, e sta alla nostra responsabilità scegliere di farlo nel momento giusto e non quando invece sarebbe il caso di aprirsi agli stimoli positivi che ci arrivano. Non possiamo impedire alle persone di lamentarsi. Se cerchiamo di farlo, probabilmente otteniamo un effetto diametralmente opposto. Quello che possiamo fare è non assecondare e chiederci cosa possiamo fare di meglio rispetto a ascoltare o produrre lamenti a nostra volta. Alberto, noi abbiamo sentito il pezzo di Enrico Brignano che ci ha fatto sorridere, ma è un ritornello che torna spesso nelle coppie, no? Mi trascuri, non pensi a me, pensi sempre al lavoro, e questo in famiglia poi si riversa anche sul clima familiare, quindi sui figli. Si esce in qualche modo? Di direi che quello è proprio, come dici tu, un copione classico che accompagna a volte la fatica di stare in coppia o la vera e propria crisi di coppia, ed in realtà intrappola sempre di più dentro la crisi, perché non è altro che un continuare a rivendicare dei propri bisogni attraverso gli errori dell'altro. Molto molto più importante, quando uno vuole fare davvero un lamento che sia fertile e non sterile, raccontare come ci si sente, cioè come vivo io, che tristezza, che emozione, che stato d'animo sto vivendo, e provare invece a definire quali sono i miei bisogni, cioè cosa dare concretamente un progetto di cambiamento. Invece di fare così, ti propongo, cioè proporre proprio la nuova strada. Un altro aspetto secondo me molto importante, laddove i lamenti sono in eccesso rispetto alle cose belle, è davvero costruire dei copioni di cambiamento, cioè fare una proposta all'altro, fargli vedere all'altra persona come dovrebbero andare le cose, stupirlo proprio con degli interventi ad hoc che gli fanno toccare con mano il cambiamento di rotta. Dottor Ballabio, Alberto ci ha dato degli spunti interessanti che si ritrovano anche nel suo libro, quando lei dice anche divertirsi, stupirsi e trovare la novità, qualcosa che ci appassiona, che cambia un po' la rotta. Io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata occupandomi dell'effetto che fa su di noi il lamento rivolto nei nostri confronti. Quando qualcuno si lamenta di noi è difficile accettarlo, a volte sono lamenti ben motivati, però di solito noi a nostra volta troviamo delle giustificazioni e lì la comunicazione si interrompe o si litiga. Ma invece questa potrebbe, noi parliamo, è tutta teoria, poi soprattutto non ci sono dei cambiamenti repentini, si semina e poi si aspetta che i cambiamenti maturino. Si può fare qualcosa? Beh, prima di tutto distinguerei fra chi si lamenta di noi e chi si lamenta con noi. Chi si lamenta di noi ci dà delle informazioni, ci dà degli stimoli, ci dà delle opportunità su cui riflettere, e magari ci dà anche involontariamente un aiuto, e quindi sta a noi utilizzare i lamenti altrui in modo costruttivo, produttivo e quindi creativo. Oggi, se qualcuno si lamenta di noi, non irrigidiamoci, proviamo a trovare tra le righe, tra il lamento, qualche indicazione che magari può darci lo spunto per diventare un po' per cambiare un po' e per migliorare. Mettiamola così, sul positivo. Dottor Ballabio, grazie per essere stato grazie con noi. Ricordo L'arte di non lamentarsi mai, Franco Angeli editore. Alberto, noi ci vediamo sabato. Certo, ciao, saluti. Bene, ora invece è tempo di conoscere il compitino di oggi. Ogni giorno infatti proviamo a misurarci e a imparare qualcosa di nuovo. Oggi ho pensato di lavorare sull'autostima e, dato che è facile essere in riserva, ci lavoreremo anche nei prossimi giorni. Ci affideremo ad Alessandra Faiella, attrice, comica, autrice di un libro di cui abbiamo parlato tantissime volte, che si intitola Autostimami. Alessandra, ciao, benvenuta. Eccomi qui, piena di autostima e carica di ottimismo. Alessandra, io in realtà dovrei dire benvenuta maestra, perché i tuoi corsi sull'autostima vanno a ruba, e io ho fatto una riflessione: o tu sei brava o siamo davvero disperati. Ma io direi entrambe le cose. C'è ansia, c'è precarietà, c'è bisogno di trovare dentro di sé un punto fermo, perché fuori chi lo trova il punto fermo? Chi lo trova questo centro di gravità permanente? Sono anni che lo cerchiamo, è vero o no? Senti, ma i tuoi corsi sono concentrati in un weekend, giusto? Sì, certo, io non sono di quelli che però risolvo l'autostima in 5 minuti, tendo bene a dire questo. Io cerco di insegnare, di dare degli strumenti, soprattutto per trovare dentro di sé anche l'ironia, lo senso dell'umorismo, la capacità di ritrovare l'aspetto più leggero per affrontare i problemi, perché ovviamente l'autostima è una cosa che si costruisce nel tempo. Diciamo che do delle piccole pillole di saggezza, vogliamo dire così, di piccole indicazioni che poi possono servire sempre. Alessandra, sì. Allora io direi iniziamo a dare due pillole. Uno, per chi vuole seguire il corso e affidarsi ad Alessandra Faiella, c'è il sito alessandrafaiella.com e lì trovate tutte le indicazioni. Per chi invece non può fare il corso, non vuole fare da sé, vuole provare a capire se magari tu potresti essere in qualche modo la persona capace di sbloccare qualcosa. Che cosa suggerisci oggi? Dunque, un consiglio in pillola, vediamo, sono passate le vacanze di Pasqua e quindi ci sentiamo un po' appesantiti, ci sentiamo grassi, ci sentiamo brutti, cominciamo a vederla in un lato ironico, non dire più sono grassa, ma non so, sono diversamente magra, e questo già potrebbe essere un buon modo per vedere le cose con un po' di distacco e di ironia. Allora, senti, diversamente magra, noi ci sentiamo domani e ci okay. proveremo. Grazie ad Alessandra Faiella. Un bacio. Buona bacio. Grazie, ciao, ce lo prendiamo volentieri. Un saluto anche a voi che ci avete seguito. Come sempre, appuntamento a domani dopo il GR delle 11.